GR24, il sole 24 ore. Manifestazione a Taranto in difesa dell'Ilva, incursione dei contestatori e i sindacalisti se ne vanno, domani arriva al Consiglio dei Ministri un decreto. Torna ad aumentare a luglio la cassa integrazione, più 44% rispetto ad un anno fa. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierina. Allora, come avete sentito dal nostro titolo, notizia di poco fa, l'Italia ha vinto una nuova medaglia e un argento in diretta da Londra. Dario Ricci, buongiorno Dario. Sì, buongiorno da Londra, arriva dal bacino di Eton Dorney, dal canottaggio, la decima medaglia della spedizione azzurra e dello splendido argento che conquistano nella finale del 2 di coppia maschile Battisti e Sartori, che si erano qualificati alla finale col quarto tempo di semifinale, battuti questa volta nella finalissima solamente dall'equipaggio neozelandese. Splendida la prova dei due azzurri che sono arrivati a meno di un secondo dai neozelandesi. Coppia direi di molto particolare, perché Romano Battisti è esordiente, mentre Alessio Sartori è uno dei grandi veterani del nostro canottaggio, già oro a Sydney 2000 nel 4 di coppia, l'ultimo oro, pensate, conquistato dal nostro canottaggio a livello olimpico, e bronzo poi nel doppio ad Atene 2004. Ad unirli la comune provenienza dalla provincia di Latina, Sartori è di Terracina, Battisti di Priverno. Arriva così la decima medaglia azzurra e poi oggi puntiamo anche nella finale del Double Trap alle 16 con Daniele Di Spigno che puntano al podio, e poi questa sera 20:15 la finale del Fioretto Donne, speriamo proprio di trovarci le azzurre in pedana alle 13 nella semifinale. Per il momento da Londra è tutto. Grazie Dario, buon lavoro. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'Ilva e dei problemi che ci sono a Taranto. Iniziamo però da una notizia dell'ultima ora. Domani il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, in accordo con il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, presenterà al Consiglio dei Ministri una proposta di decreto legge su Taranto per interventi di bonifica e di tutela ambientale. Intanto oggi a Taranto i lavoratori scioperano per tutta la giornata a sostegno dei colleghi dell'Ilva. Nel centro della città era in programma anche una manifestazione interrotta da alcuni contestatori. Allora, per capire che cosa è successo, ci colleghiamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Paolo Bricco. Buongiorno Paolo, allora raccontaci quello che è accaduto questa mattina. Sì, buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. È successo che i due cortei della città si sono svolti in maniera pacifica e con una preoccupata partecipazione. È andato tutto bene, una manifestazione di popolo si sarebbe detto una volta, si è arrivati al centro della città e qui un gruppo di radicali estremisti ambientalisti legati agli ultra del Taranto Calcio si sono impossessati del palco e hanno in qualche maniera impedito la prima parte della manifestazione. I sindacalisti sono riusciti comunque a parlare, i sindacalisti locali e quelli di categoria, non hanno però preso la parola né Angeletti né Bonanni. Ci sono stati molti fischi, c'è stato un clima di evento rovinato. Alla fine ha comunque parlato la Camusso, che ha ribadito la posizione dei sindacati, cioè sia l'accertamento della responsabilità ma tutela piena e assoluta della fabbrica e del posti di lavoro. Aggiungo una cosa, c'è un grande clima di attesa in città, perché domani, oltre al provvedimento del governo che avete appena annunciato, ci sarà il riesame e quindi inizierà l'iter per decidere che cosa fare, sia delle 8 persone che sono agli arresti domiciliari della famiglia Riva e del top management, sia per quanto concerne il sequestro degli impianti. Bene, grazie a Paolo Bricco in diretta da Taranto, e vi aggiorniamo anche sulla situazione a Genova, perché pur non incandescente come a Taranto, il clima è teso anche a Genova. C'è una manifestazione per la difesa degli impianti dell'Ilva. 2000 persone hanno raggiunto in corteo la sede della Regione Liguria. Il presidente Claudio Burlando è uscito per incontrare i lavoratori, ma ha dovuto affrontare un faccia a faccia con un lavoratore che gli ha urlato: «Dovete fare qualcosa, altrimenti veniamo a mangiare a casa tua». E sempre per quanto riguarda l'Ilva, questa mattina il presidente Ferrante ha detto e ha specificato che il presidente dell'Ilva Ferrante ha specificato che gli impianti di Taranto sono in piena attività. Parlando con i giornalisti ha detto gli impianti non possono essere assolutamente spenti, perché per spegnere gli impianti come quelli occorrono interventi tecnici molto complessi, difficili e laboriosi. Rispondendo alle domande dei cronisti ha sottolineato che i custodi si sono insediati e stanno prendendo conoscenza della realtà dello stabilimento di Taranto. Adesso cambiamo argomento. Torna ad aumentare la cassa integrazione. Secondo i dati INPS, le ore autorizzate a luglio sono state 115 milioni, in aumento del 21,3% rispetto a giugno e del più 44% rispetto a luglio dello scorso anno. Arrivano nuove stime sull'economia italiana. L'ufficio studi di Confcommercio ha rivisto al ribasso le stime sul prodotto interno lordo, che indicano un calo per il 2012 del 2,2%. Per il 2013 si stima una riduzione dello 0,3%. Confcommercio vede nero anche sul commercio al dettaglio. Per il 2012 si prevede tra aperture e chiusure un saldo negativo di oltre 20.000 esercizi. Alle 13:06 minuti sentiamo come vanno i mercati in diretta. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, giornata dominata da molte notizie sui mercati, soprattutto dall'attesa della riunione già iniziata naturalmente questa mattina dalla Banca Centrale Europea. Alle 13:45 conosceremo le decisioni di Mario Draghi sui tassi di interesse, ma soprattutto nella conferenza stampa successiva alle 14:30 conosceremo i dettagli, se ce ne saranno, sulle iniziative di stimolo monetario all'economia e soprattutto le iniziative di stimolo per calmierare gli spread, quindi i rendimenti dei titoli di Stato dei paesi periferici, e quindi chiaramente si attende anche un beneficio per quello che riguarda il mercato italiano. Gli auspici del mercato azionario sono positivi relativamente alle decisioni della Banca Centrale Europea, perché dopo una mattinata più fredda e interlocutoria, come dicono gli operatori, adesso gli indici sono tutti in rialzo e anche abbastanza sostenuto, perché Milano guadagna oltre un punto, Parigi più 0,6, Francoforte più 0,8, Londra più 0,36%. C'è stata anche un'asta spagnola questa mattina. La Spagna ha collocato oltre 3 miliardi di euro di titoli di Stato con tassi in rialzo, soprattutto sulle obbligazioni a 10 anni al 6,64%. I casi di Piazza Affari, sui quali oggi concentriamo l'attenzione, abbiamo avuto i dati di Telecom e Generali che sono piaciuti al mercato. Generali più nel 66%, il Leone di Trieste ha smentito la possibilità di un aumento di capitale, mentre per quello che riguarda Telecom più nel 54%, andava molto meglio stamattina, il gruppo ha confermato la politica dei dividendi. Sotto osservazione anche Mediobanca, meno 0,8%, Piazzetta Cucci è arrivata a perdere 4,5 punti questa mattina, all'indomani dell'interrogatorio dell'amministratore delegato Alberto Nagel, indagato per ostacolo alle autorità di vigilanza in concorso con Salvatore Ligresti nell'ambito dell'affare Fondiaria Sai. È tutto. Grazie Deborah. Abbiamo altri dati che arrivano dal Giappone, in particolare quelli di Sony e Sharp. Sony ha registrato una perdita netta di gruppo di 24,6 miliardi di yen, circa 250 milioni di euro nel trimestre aprile-giugno, a causa del forte yen e dell'aumento dei costi di ristrutturazione. Gli utili sono in calo del 77%, le vendite in aumento dell'1,4%. E nello stesso trimestre Sharp ha perso 138 miliardi di yen, pari a 1,4 miliardi di euro, quasi tre volte superiore a quella fatta registrare nello stesso periodo dello scorso anno. Sharp ha annunciato il taglio di 5.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la fine del marzo 2013 per tentare di rilanciare i profitti messi a dura prova dalla crisi del mercato dei televisori LCD. Vanno bene invece i conti di Lufthansa, che chiude il secondo trimestre con un utile operativo in crescita del 28%, sopra le stime degli analisti e grazie al piano di tagli ai costi. Il risultato del semestre chiude tuttavia a meno 20 milioni per via delle perdite del primo trimestre. Ci spostiamo ad Helsinki, da dove è partito alla volta di Madrid il presidente del Consiglio Mario Monti. Non è un compito facile quello al quale sta lavorando il premier italiano Mario Monti, impegnato in una shuttle diplomacy in giro per l'Europa ormai da tre giorni. Martedì in Francia, ieri ed oggi in Finlandia e stasera a Madrid. Non è facile convincere i rigoristi del nord, come il premier finlandese Erkki Katainen, che non tutti i paesi del sud sono spendaccioni e inaffidabili e occorrono misure europee contro gli spread eccessivi. Non è neppure una passeggiata ricordare ai nostri vicini vicini più prossimi, come la Spagna di Mariano Rajoy, che i compiti a casa vanno ultimati e se non basta non c'è altra strada che chiedere un programma di assistenza all'Unione Europea. Alla vigilia della riunione del board della BCE, il premier italiano questa mattina ha incontrato ad Helsinki, nella sede della locale Confindustria, la comunità degli uomini d'affari finlandese, alla quale ha spiegato gli sforzi compiuti dall'Italia, pensioni, mercato del lavoro, spending review, e ha chiarito che lo spread alto non è più, come una volta, uno stimolo a fare le riforme, ma c'è il rischio che possa portare in Italia a governi contrari all'euro. Monti ha poi sfatato alcuni miti, come quello che vorrebbe i paesi del nord gravati da un peso eccessivo per aiutare il sud. Per la Grecia, ad esempio, ha detto, Francia e Germania hanno contribuito più di altri, ma le banche di quei paesi hanno beneficiato degli aiuti perché erano esposte molto più di quelle italiane con i titoli del debito greco. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Helsinki. Da Helsinki a Roma, per il dibattito finora inconcludente dei partiti alla ricerca di un accordo per la riforma elettorale, partiti che però parlano già di alleanze. Messo da un lato da Bersani e Vendola, che di fatto puntano ad una coalizione di governo aperta all'UDC, oggi Di Pietro rilancia e dice: mi candido a governare il paese alla guida di una coalizione di centrosinistra e riformista. Chi ci sta venga con noi, spiega il leader dell'Italia dei Valori, che richiama poi tutti ad occuparsi delle cose concrete del paese e a non parlare dei massimi sistemi. Ma a meno di clamorosi ripensamenti, l'ex magistrato sembra aver perso il collante che lo legava alla famosa foto di Vasto. Per Bersani, Di Pietro al momento è incompatibile con il percorso verso le elezioni del 2013, percorso che vede tre tappe di avvicinamento: alleanza di centrosinistra con chi accetta gli impegni imprescindibili che aspettano il paese, quindi a fine anno le primarie, e poi un patto di legislatura con i centristi. Cautela oggi intanto, dopo l'accelerazione di ieri da Vendola, che ricorda: non pongo veti nei confronti di nessuno, tantomeno dell'UDC, ma un'alleanza che vede due partiti uniti è molto difficile, comunque il confronto sarà nel merito. Cautela anche dall'UDC, Casini al momento non si esprime sugli scenari futuri. Dal PDL Alfano commenta: il leader centrista avrebbe seri problemi a spiegare ai suoi elettori un'eventuale alleanza con Vendola. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Slitta l'interrogatorio di Roberto Formigoni, indagato per corruzione aggravata in relazione all'inchiesta sulla Fondazione Maugeri. I suoi legali hanno depositato una memoria dalla quale si evince che il suo eventuale interrogatorio potrà tenersi solo dopo aver conosciuto gli atti di indagine. Ed ora la situazione in Siria. La battaglia intorno ad Aleppo continua. La città siriana è ora isolata telefonicamente. L'aeroporto militare, da dove decollano gli elicotteri e i caccia, è stato bombardato da un carro armato preso dai ribelli. Conquistato un altro posto di frontiera, questa volta al confine con l'Iraq. Nel frattempo, per la terza volta in una settimana, l'esercito governativo siriano ha aperto il fuoco con armi pesanti contro il territorio giordano. Sono 43 i civili uccisi. E mentre continuano gli scontri, la FAO lancia l'emergenza profughi. Secondo l'organizzazione, 3 milioni di siriani hanno bisogno subito di cibo e aiuti. L'America segue la crisi dell'area e, secondo la CNN, Barack Obama avrebbe autorizzato missioni segrete a sostegno dei ribelli. L'ordine sarebbe stato firmato già nei mesi scorsi, permettendo alla CIA e alle altre agenzie di intelligence statunitensi di fornire in modo segreto sostegno alla rivolta contro il regime di Bashar Assad. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è stato un allarme e buba al processo contro le Pussy Riot, ma le tre esponenti della band non sono state fatte uscire dal tribunale. L'accusa arriva dalle autrici della preghiera punk anti-Putin all'interno della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, sotto processo per teppismo, per avere assaltato l'altare maggiore della chiesa indossando maschere e vestiti multicolori. Di questo parlerà tra poco Gianpaolo Musumeci nel proseguo del nostro programma, all'interno di Nessun Luogo è lontano, e naturalmente ci sono molte altre notizie che arrivano dall'estero. È tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini. Grazie a Roberto Scaltritti, che si è occupato della parte tecnica. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.